9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 4 di febbraio, do un dolorante Oscar Giannino che vi auguro non si senta oggi nel tono di voce, un po' si sentirà nel caso, mi scuso. Allora, la trasmissione di oggi nasce da uno spunto suggeritoci da molti di voi con delle mail, con degli sms. Quando alcuni giorni fa abbiamo ospitato il professor Luca Ricolfi parlando del suo libro La Scossa, ricordate che mettemmo a frutto il tentativo riuscito del professor Ricolfi di proporci dei nuovi criteri per una contabilità nazionale liberale, introducendo 4 criteri in base ai quali, che non ci sono nei conti pubblici, il tasso di parassitismo, ricordate, in base ai quali la conclusione fu un po' scioccante, perché la conclusione era che in realtà se si dovesse riequilibrare la contabilità nazionale in vista del federalismo prossimo venturo promesso per la parte finale di questa legislatura, allora noi avremo la bellezza di 52, dice il professor Ricolfi, miliardi di euro che andrebbero reindirizzati a favore del Nord. E questo dava il titolo al suo libro, Il sacco del Nord. Allora, il problema è che ci hanno scritto molti invece dal sud, come giusto, dicendo non abbiamo capito, cari amici di 9 in punto e di Radio 24, quale sarebbe la vostra controproposta invece per il sud, visto che i 52 miliardi in meno ci avete spiegato che vanno restituiti alla parte più produttiva del paese e che ha meno spesa pubblica pro capite, ma il sud, ecco, allora oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata alle ricette per far ripartire il sud, dimenticando il più possibile tutto quello che è stato fatto nei decenni alle nostre spalle, partendo da una serie di proposte, soprattutto una proposta centrale, e anche questa volta ho scelto di individuare l'autore di un libro che sta uscendo in libreria in questi giorni e che ho cambiato i titoli perché Il sacco del Nord è quello dei Ricolfi, La scossa è il titolo del libro di cui parliamo oggi. L'autore è Francesco Del Zio, che è stato per anni direttore generale dei giovani di Confindustria quando era giovanissimo, in realtà oggi è un manager di un importante gruppo industriale italiano, ha fatto parlare molto di sé per un libro, Generazione Tuareg, di cui molto si è parlato per rivolto alla generazione dei suoi coetanei e indicandoli a una scossa, per così dire, invece che a fare i bamboccioni, e a dire la verità anche con una lettura un pochino più ottimistica e complessa di chi si limita a liquidare la sua generazione come quella dei bamboccioni. E in questo libro La scossa avanza 6 proposte in particolare, ma una nella quale io mi riconosco integralmente, e cioè quella, prima di dare la parola a lui e poi passare agli ospiti, chiudere con gli interventi sia ordinari che straordinari di politica per il Mezzogiorno. Il bilancio è fatto nel libro, ne parleremo nel corso della puntata, non voglio appesantire l'esordio, e invece tagliare i contributi improduttivi in conto capitale alle imprese del sud, sono tanti come vedremo, e in cambio semplicemente fare una aliquota zero per l'imposta sui redditi lordi delle società e delle imprese. Quindi invece che ricavare questi 4 miliardi di euro scarsi dell'IRES dalle imprese del sud e più contributi pubblici a fondo perduto in realtà alle imprese del sud, guadagnarci, perché con il gettito in meno che prenderemo con l'aliquota zero, ma consentendo a chi vuole fare impresa davvero di far crescere il sud, noi non comprometteremmo né i conti pubblici e soprattutto eviteremmo ciò che è avvenuto per decenni, cioè di buttare un fracco di soldi i cui esiti sono semplicemente questi: il gap tra il PIL pro capite, il reddito pro capite del sud rispetto al nord non solo non si è colmato, ma è di nuovo in via di divario a distanza di decenni. Ecco, questa proposta principale, la non tax area, nella quale mi credo molto, io credo molto, insieme ad altre, gli ospiti di oggi. Abbiamo innanzitutto Francesco Del Zio, buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo il professor Domenico De Masi, che insegna sociologia del lavoro alla Sapienza, presidente della Fondazione Ravello, una delle più importanti iniziative culturali che hanno dato in questi anni e continueranno a dare un'immagine completamente diversa del sud. Seduto, grazie De Masi. Grazie a voi. E Domenico Gangemi, Mimmo Gangemi, scrittore che ha fatto molto parlare di sé, calabrese, un ingegnere che però sui temi della 'ndrangheta, della criminalità, della mancanza dello Stato è una delle voci che più potentemente e sapientemente si è aggiunta a quella sì, di Saviano e così via. Mimmo Gangemi, grazie. Buongiorno, grazie. Allora, Francesco Del Zio, lei nel suo libro propone una batteria di dati molto interessanti, su, ne richiamo solo alcuni, tanto per il PIL pro capite del Sud era il 61% di quello del Nord del 60%, nel 2006 il 67%, però in questo periodo a fronte di una media nazionale di 100 al Piemonte sono state destinate risorse pubbliche pari a 79, alla Lombardia 59, al Veneto 56, alla Sicilia 140, 150 alla Campania, 169 alla Calabria, 202 alla Sardegna, quindi questa è la ripartizione delle risorse. Molte meno banche al sud che al nord, lei è a favore della banca del Mezzogiorno di Tremonti. Ancora alcuni numeri prima di lasciare la parola. Il totale delle risorse pubbliche calcolato lo Svimez 1951-2008 buttate nella fornace nel Mezzogiorno 342,5 miliardi che sono equivalenti a valori attualizzati a mezzo punto di PIL e talvolta un punto di PIL l'anno per sostegno al Sud, e con di questi 115 miliardi destinati a sussidi, agevolazioni, incentivi per imprese private si facevano 23 ponti di Messina. Se pensiamo solo agli ultimi 5 anni, 2003-2008, sono stati concessi all'impresa del Mezzogiorno 33 miliardi di euro tra finanziamenti e agevolazioni nazionali e regionali, e il più di queste agevolazioni sono in conto capitale, cioè a fondo perduto, non in presenza di piani che vengano verificati, cioè soldi buttati dalla finestra, in parole povere, non certo sviluppo fatto. In più ci sono ben 1307 forme diverse di incentivi calcolate dal Ministero dello Sviluppo Economico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè lei è molto preciso nel ricordare ai lettori del libro La Scossa che non è una tesi del partito del nord, dei leghisti eccetera, quella per cui bisogna fare un decennio serio di politica sia straordinaria finita e poi quella delle politiche di coesione dei patti territoriali di Ciampi, è proprio che la cosa non ha funzionato, quindi lei dice cambiamo pagina. Sì, e tutto questo è detto da un terrone, ecco, quindi come dire, non c'è nessun sospetto di intelligenza con partiti del nord e leghismi vari. I numeri li ha dati lei e grazie dell'endorsement rispetto alla tesi fondamentale del libro, quindi io più dei numeri vorrei dare una visione, e la visione è proprio questa: se vogliamo salvare il Sud da un declino irreversibile, pensiamo solo che il rapporto tra Sud e Nord non è mai stato così sfavorevole come lo è oggi dal dopoguerra, quindi dal dopoguerra ad oggi questo è il momento peggiore del Sud in rapporto con il Nord. Ecco, se vogliamo salvarlo dobbiamo liberarlo da qualsiasi tipo di intermediazione, il che vuol dire incentivi pubblici che oggi vengono dati alle imprese e che sono appunto soldi buttati, ma vuol dire anche per esempio i soldi buttati dalle regioni. Nel libro parlo, e sono dati assolutamente inediti, dei soldi per il turismo che vengono spesi dalle regioni, con dei paradossi incredibili. Quella della Basilicata non è male. Prego, prego, l'ho interrotto per dire che quello della Basilicata, che io ignoravo, mi ha molto divertito. Cioè una regione che spende di più per ogni turista di quanto il turista le porti, insomma. Esatto, ecco appunto, mi ha anticipato esattamente così. Siamo arrivati a questo paradosso. Non vale solo per la Basilicata, vale in realtà per diverse regioni del sud, ed è stato calcolato che i turisti che arrivano in queste regioni spendono meno di quello che la regione pro capite rispetto ad ogni turista investe per attrarli nella regione stessa. Quindi siamo alla follia, evidentemente. Allora, come uscire da questo pantano di risorse pubbliche sprecate senza produrre sviluppo? Appunto, la proposta più efficace, ma che ha dei riscontri importanti già in Europa, è quella della no tax area. Ci sono condizioni di sfavore fortissime per chi decide di investire al sud, la mancanza di infrastrutture, la presenza della criminalità, una serie di contesti appunto sfavorevoli. L'unico modo per azzerare tutte queste negatività e per spingere i capitali che si muovono nel mondo alla ricerca dell'allocazione più corretta è quella di dire Da domani chi investe al sud paga zero tasse per le imprese, naturalmente. Io propongo un provvedimento mirato, in realtà, ovvero facciamo questa misura per 5 anni, facciamola per investimenti di tipo industriale e non finanziario, facciamola per investimenti che abbiano la capacità di produrre valore aggiunto e alta tecnologia. Quindi non una misura indiscriminata, ma una misura che mira anche rispetto ai capitali e agli investimenti che vogliamo realizzare nel sud. Poi però non basta questo, probabilmente, perché a me interessa molto e dovrebbe interessare a tutti quelli che hanno a cuore il sud anche la gestione dei soldi pubblici al sud, e quindi la catena delle irresponsabilità che oggi caratterizza gli amministratori regionali e locali del sud va spezzata, e va spezzata, se volete, con misure meno liberali e molto più coercitive, ma che a me sembrano indispensabili. Per esempio, prevedere il commissariamento automatico delle regioni che vanno in deficit di bilancio consistente, e prevedere l'ineleggibilità, quindi soggettiva, di quegli amministratori che sono responsabili di questo tipo di buchi. Ecco, alternando libertà di iniziativa economica spinta fino al massimo, la no tax area, e responsabilizzazione con un pacchetto di sanzioni forti degli amministratori che sprecano denaro pubblico, io credo il Sud possa in qualche modo rinascere. Mi interessa la prima reazione di Mimmo Cangemi a una proposta liberista che dice lo Stato ordinario e straordinario, in realtà più sviluppo non l'ha fatto. Proviamo a scommettere dal basso, semplicemente abbattendo le tasse, riuscendo in Europa a far passare questa cosa. Nel libro si spiega anche come, c'è stata una sentenza della Corte Europea, quello sulle Azzorre, c'è un progetto sperimentale su 22 aree franche che parte dal 1° gennaio di quest'anno. Quindi lasciamo perdere il problema legale, diciamo così, della cornice internazionale, ma io voglio sapere dal basso, in una regione come la Calabria, in una regione in cui ci sono i fenomeni che abbiamo visto a Rosarno, ecco, che cosa vorrebbe dire secondo lei? Questa proposta funzionerebbe o sarebbe interpretata invece come una cosa per cui di Stato ce n'è ancora di meno? Guardi, io ho letto queste 6 proposte shock, sicuramente interessanti, non sono un economista, quindi non mi addentro nel merito, però voglio dire che ho l'impressione che tengano poco conto della realtà del territorio. Non è facile attuarle, anzi credo che sia assolutamente impossibile in questo momento, se prima non si abbatte il costume di illegalità che è diffuso in questa nostra terra. Qua da noi si respira un'aria intrisa di 'ndrangheta. Non vuol dire che tutto è 'ndrangheta, vuol dire che c'è una percentuale della popolazione che è 'ndrangheta, e attorno a questa bassa percentuale della popolazione c'è una mentalità diffusa che si sente più affine all'andrangheta che allo Stato, una certa vetta della popolazione che si riconosce più in questo antistato che poi in realtà sta diventando Stato. Per cui, per poter mettere in atto queste soluzioni shock, bisogna prima ricreare, secondo me, una nuova mentalità, ripartire da questa nuova mentalità, disintossicare l'aria che noi respiriamo giornalmente qua. Il mondo imprenditoriale ormai e anche la politica sono saldamente in mano alla 'ndrangheta. Se non si risolve non tanto il problema 'ndrangheta con gli arresti, e adesso in questo ultimo periodo vedo grande efficienza in questo settore, nel senso che ci sono molti arresti, molte 'ndrine, cosche mafiose vengono eliminate con gli arresti, molti beni vengono confiscati, c'è molto fermento e attività positiva in questo senso, ci sono anche parecchie amministrazioni comunali virtuose, però non è questo il problema, bisogna sconfiggere l'aria che sta di 'ndrangheta che si respira, e bisogna, sconfiggendo quest'area di 'ndrangheta, si può ripartire con queste soluzioni. Ma se continua ad essere la 'ndrangheta l'unica impresa vera che esiste sul territorio, se continua ad essere la 'ndrangheta l'organizzazione che detta le regole e che autorizza e che si sostituisce allo Stato, noi non riusciremo mai. Lei dice, e praticamente poi finisce che è la 'ndrangheta che incamera anche il credito fiscale alle imprese. Chiarissimo. È la 'ndrangheta che ha in mano l'economia e che autorizza l'economia. Se vuole le faccio un esempio. Se io devo organizzare una piccola industria tipo Nord-Est, chiedo le autorizzazioni burocratiche allo Stato, ma l'autorizzazione vera per impiantare su questa attività mi deve venire dalla 'ndrangheta, non devo disturbare l'interesse di chi ha il vero controllo del territorio. Ma le faccio un esempio più banale: se io devo comprare da mio fratello il lascito che era di mio nonno e che poi è passata a mio padre, che poi è passata a mio fratello. Io, se il terreno è appetibile, nonostante sia un lascito di famiglia, devo chiedere l'autorizzazione in certi ambienti particolarmente degradati. Ecco perché credo che queste soluzioni, sicuramente brillanti, risolutive, si scontrano con una realtà del territorio che le impedirebbe. Chiarissimo. Domanda a Sergio D'Antoni, parlamentare del PD, vicepresidente della Commissione Finanza della Camera, combattivo difensore dell'esigenza del Mezzogiorno, trascurate, lo ripeto, da tempo nella politica nazionale. Allora, la sua opinione rispetto a un bilancio così crudele, crudo, ma anche secondo me veritiero, delle politiche, non tanto quelle del straordinario della vecchia cassa, quella che funzionava, ma poi di quello che è diventato poi la seconda fase della lunga cassa che non funzionava più, e poi dei diversi tentativi di sostituire l'intervento straordinario e quello ordinario, fino alle politiche di coesione, il governo Ciampi e così via. E si dice in questo libro, basta, è inutile che ci illudiamo di continuare a buttare soldi, il gap non diminuisce, e allora svoltiamo pagina, una svolta liberista sulla no tax area. Lei che dice, D'Antoni? Io non la chiamerei svolta liberista, a me sembra una svolta necessaria che è già cominciata, solo che abbiamo grandi ostacoli da superare per realizzarla. Intanto, ma potremmo fare una discussione più approfondita sui numeri, e sui numeri dovremmo vedere quanta di questa spesa è stata sostitutiva della spesa ordinaria e quanta invece è stata effettivamente aggiuntiva. Secondo, c'è un problema di assunzione di responsabilità dello Stato, perché in tutto questo si scarica, e ci sono delle colpe e responsabilità degli amministratori locali enormi, ma si scarica tutto. Però io faccio sempre due esempi, le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, che sono due aziende nazionali, diciamo, in cui le regioni non c'entrano nulla. Se l'alta velocità si ferma a Salerno, se le strade da Salerno in giù poi non ci sono, questo non c'entra nulla né con la spesa né con le responsabilità locali. C'entra una decisione dello Stato attraverso le sue aziende pubbliche di non far viaggiare i meridionali sui treni e di avere poche strade, perché l'esempio dei treni è il più clamoroso di tutti. Basta farsi un giro per le strade meridionali e per i binari meridionali per rendersi conto che noi non abbiamo treni. Cioè, questo tocca allo Stato, non può toccare a nessun altro. E però, D'Antoni, cioè, il fatto è che di fronte... No, ma lo dico soltanto perché... No, ma è vero. Carichiamo tutto. No. Invece bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. D'accordo, ma ricostruiamo il passato. Lei ha ragione, perché di fronte all'impegno che bisognava devolvere, concentrare almeno 45% delle spese di investimento pubblico nel sud, non è stato mantenuto. In percentuale minore non è stato mantenuto dai governi centro-sinistra e poi maggiore ancora dai governi del centro-destra. Il 38, data la popolazione del territorio. Per carità. E naturalmente l'obiezione che è stata fatta è, per esempio, faccio ferrovie e dice, beh, ma io poi a questo punto c'è infrastrutture di più nelle aree a più alto reddito, a più alta intensità di capitale, piuttosto che dove c'è un miglior servizio. Questa è la classica obiezione. È giusto, è il famoso discorso dell'uovo della gallina. Se lo sviluppo va dove ci sono i servizi e i servizi vanno dove c'è lo sviluppo, non usciremo mai. Qualcuno si deve assumere la responsabilità. La Germania l'ha fatto nell'est, la Spagna l'ha fatto e l'Italia che non l'ha fatto. Quindi il problema è che ci deve essere qualcuno che lo deve fare. È chiaro che, appunto, parlo dello Stato, non dell'economicità delle ferrovie. Chiaro, però chiaro. Se vogliamo sviluppo dobbiamo dargli servizi, se vogliamo turismo dobbiamo dargli trasporti. Se questo non glielo diamo, tutto questo, come dire, diventerà più difficile. Parlo, insisto, di aziende dello Stato. La spesa in conto capitale delle Ferrovie dello Stato riguarda solo per il 18% il sud, questo per dare un'idea a tutti gli italiani che ci ascoltano di come stanno le cose. Dopodiché io sono nettamente d'accordo, detto questo, sono nettamente d'accordo sulla no tax area e sulla proposta shock, perché questa è l'unica possibilità. Per quel che mi riguarda, nel governo di cui facevo parte, noi abbiamo abolito tutti gli incentivi, non esistono più incentivi singole ad imprese. In questo momento gli incentivi riguardano il nord, non riguardano il mezzogiorno. La 488 non funziona più, non ci sono più. noi siamo per una linea, io sono per una linea di agevolazione di fiscalità di vantaggio. Abbiamo tre ostacoli e bisogna saperlo. Uno è, l'avete citato, è la Commissione europea, è l'Europa, è la comunità che dà questa strana interpretazione sugli aiuti di Stato e sulla questione della lesione della concorrenza, se si fanno delle differenziazioni fiscali all'interno dello stesso paese. E lì bisogna battersi, okay. E lì bisogna battersi con forza, lo dice il libro, io ho fatto battaglie furibonde con l'allora commissario Monti, quindi... E gli altri due? Ostacoli? Gli altri due ostacoli? Gli ostacoli sono questo governo. Due strumenti che noi avevamo di fiscalità di vantaggio, cioè il credito d'imposta, anch'esso automatico, non c'è discrezionalità della burocrazia, non c'è nulla, e le zone urbane franche che voi avete citato da noi ottenute sono state letteralmente smontate da questo governo, cioè non esistono più ed erano gli unici strumenti che la comunità ci aveva dato per determinare questa condizione, diciamo, che c'è. No, no, ma io prometto a lei e a chi ci ascolta che sulle 22 aree urbane franche noi continuiamo ad occuparcene, perché se non decollano significa che l'Italia non ci crede proprio a questo tipo di politica. Il terzo ostacolo? Ma nell'ultimo provvedimento, cosiddetto mille proroghe, il ministro Tremonti li ha letteralmente smontati. Non solo non decollano, li ha smontati. Ce ne occuperemo. Il terzo ostacolo? Il terzo ostacolo, siccome mi fa piacere che l'autore è di ambiente Convindustriale, la Convindustria su questo non ha mai fatto una vera battaglia nazionale, perché non è mai riuscita a spiegare ai suoi rappresentati che bisognava, se si va a investire in una zona, pagare di meno di un'altra zona. Quindi, ok, allora fino, perché abbiamo per il momento le comunicazioni pubblicitarie. Eccoci tornati in studio, le 6 proposte shock per far ripartire il Sud senza più sprechi di denaro pubblico, scommettendo dal basso, innanzitutto una grande area libera dalle tasse, 5 anni senza IRES per le imprese, imprese vere, non più contributi in conto capitale, cioè buttati dalla finestra senza progetti. Queste le proposte del libro La scossa del Francesco Del Zio, che con noi. Mi interessava sapere innanzitutto a Domenico De Masi se condivide il fatto che c'è bisogno ancora di Stato, come ripete sempre Sergio D'Antoni, che dice va bene a queste proposte, ma qui lo Stato deve ancora spendere, altro che. Lei che dice, De Masi? Ah, io sono perfettamente d'accordo con le denunce che faceva D'Antoni, però dico questo: quando avevo 19 anni ero redattore di Nord e Sud, la rivista di Francesco Compagna, e si dicevano queste cose. Poi ho fatto il collaboratore di Pasquale Saraceno alcuni anni dopo e si dicevano queste cose. Oggi si dicono queste cose. Intanto che cosa è avvenuto? È avvenuto che un darwinismo alla rovescia ha continuato a deprivare di anno in anno il Sud dei cervelli migliori. Io voglio prendere, che so, un paese di 2500 abitanti come Ravello, che è il paese che conosco meglio nel Sud, e ogni anno far partire da Ravello 10-15 giovani che sono sicuramente più intraprendenti e probabilmente più intelligenti, e dopo un salasso di questo genere che dura, che so, 20 anni, quando i 300 giovani migliori se ne sono andati su 2500 abitanti, vi sfido a fare qualunque cosa in un paese di questo genere. Noi adesso abbiamo fatto, diciamo, il miracolo di creare un auditorium progettato da Oscar Niemeyer, ma in questo momento l'auditorium è tornato nelle mani del comune, il comune è del tutto incapace, e quindi questa splendida opera che è costata alla comunità europea 18 milioni e mezzo di euro finirà come l'ennesima cattedrale nel deserto. Io spero di no, non più cattedrale metalmeccanica, ma questa volta cattedrale post-industriale, quindi è cambiata l'era, ma alla fine è sempre la stessa. Ci sono quindi questi problemi di carattere, oltre quelli che avete detto, di carattere antropologico, che non si ha il coraggio di denunziare perché appaiono un razzismo. Però ecco, questo, no, un momento solo, perché questa è una matrice sulla quale bisogna fare. Quando lei dice antropologico, lei è il primo che a capire che si espone a un'interpretazione dalla quale io mi tengo sempre lontano, che è quella delle tare ataviche, la gente del Sud che non c'ha voglia di fare niente. Con grande coraggio, ecco. Perché sono meridionale, tra l'altro rispetto all'autore del libro ho conservato perfino l'accento meridionale che lui non ha più, lavoro nel Sud spessissimo, ho scritto 3-4 libri sul Mezzogiorno, insomma non sono sospettabile di razzismo sotto questo punto di vista, ma ripeto, quando si toglie ogni anno che so, 10, 20, 30 mila persone che sono di sicuro le più intraprendenti. Ma professore, lei dice quando si toglie, ma quelli se ne vanno, se ne vanno, non c'è niente da fare, mica perché qualcuno organizza le retate o no? No, no, per carità, perché la persona più intelligente e non masochista a un certo punto preferisce il sacrificio della partenza, dello strappo dalla propria terra, piuttosto che morire di fame o stare in mano all'andrangheta. Però qual è poi l'effetto definitivo? È una sorta di infantilismo comportamentale e una totale incapacità organizzativa, per cui i soldi arrivino con o senza intermediazione non saranno gestiti bene, per il semplice fatto che un gruppo di 10, che so, veneti sa organizzare un cantiere, un gruppo di 10 calabresi o campani non lo sa fare. C'è poco da fare, perché io lo vedo tutti i giorni, ci lavoro, organizzo cose. A Ravello stiamo puntando tutto sulla organizzazione della cultura. Per fare che cosa? Per sanare una situazione che riguarda il turismo. La Francia ha una saturazione delle strutture alberghiere del 70%, l'Italia scandalosamente del 50%, il Mezzogiorno ha una saturazione dei posti letto alberghieri del 26% all'anno. È una follia avere una Ferrari e tenerla chiusa per 70 giorni su 100 nel garage. Perché questo? Incapacità di organizzare bene i fattori produttivi. C'è il clima buono, ci sono splendidi panorami, arrivano pure i soldi, molto più di quanti ne arrivano nel Veneto per organizzare sagre e festival del genere. Abbiamo una regione, per esempio, come la Sicilia, al centro tra il nord e il sud del mondo, al centro tra l'est e l'ovest del mondo, stracolma di beni culturali, e non si è riuscito a far nulla. In Costa Smeralda, dove non c'era neppure un nuraghe, diciamo così, e dove non si è potuto puntare sui Colossei o sui Vaticani, la cosa ha funzionato. Si è creato il più grande polo turistico del mondo. Quindi il problema è organizzativo. Noi dobbiamo riconoscere, abbiamo un deficit organizzativo che purtroppo il Formez a suo tempo non colmò, quello attuale meno che mai, e quindi siamo in una situazione di questo genere. 10 napoletani non si sanno organizzare. Benissimo. Hanno grandi fantasie ma nessuna concreta. La interrompo su questo aspetto, che in effetti nel libro è meno toccato, questo della questione antropologica, chiamiamolo così. Un po' di telefonate e poi torniamo alla del zio. Emiliano da Roma, che dice Emiliano? Dica. Buongiorno a tutti. Proco. Credo che mi sente? Prego, prego. Ecco, dico che sembra evidente negli interventi, insomma, che sono stati fatti fino ad ora, che il problema del Mezzogiorno non è un mero esercizio contabile, ma è molto più profondo, è sia una questione culturale che una questione di buona gestione. Oggi io sono una persona del sud che ha dovuto lasciare il sud per trovare realtà lavorative soddisfacenti, e al sud esiste un sistema di controllo che genera soldi molto più efficiente dello Stato, della criminalità organizzata. Non si risolve il problema con un banalissimo esercizio contabile, levo da una parte, metto dall'altra, il saldo è positivo, ho risolto il problema. Bisogna agire su un sistema che controlla le imprese, che fa pagare le tasse, su un sistema che garantisce un substrato, un contesto lavorativo vivo, reale, perché oggi non c'è. Oggi se un neo laureato vuole trovare un lavoro che non sia in un call center a tempo determinato deve andare via dal sud, su questo non ci sono dubbi, quindi il sud è... Chiarissimo, Emiliano, mi pare di capire che sentiamo un po' peggio adesso, però la cosa di Emiliano è più Stato, non meno Stato, a prescindere da credere o meno lo Stato, serve, questa è la tesi di Emiliano, un po' come quella di Cangemi, serve lo Stato che le faccia pagare le tasse prima di dire non ve le aboniamo per 5 anni. Michele da Verona, prego Michele. Mi trovo concorde con quasi tutti gli interventi tranne uno. Sì, effettivamente dovrebbe esserci lo Stato, ma meno Stato, non è un controsenso. Oh, finalmente, una voce che la pensa come me. In pratica le faccio un esempio. Io sono del Veneto, di Verona, ho un'attività che è in piedi del 65 e ritengo che il Sud abbia delle menti splendide. Io sono stato spesso al Sud, ho amici del Sud e ritengo che abbiano oltretutto anche delle industrie, vedi nell'aeronautica verso Napoli, vedi giù a Palermo la STM Microelectronics, cioè hanno aziende che sono effettivamente che sono effettivamente realtà molto valide. Purtroppo però è vero anche che ho sentito, in questi termini qua, che effettivamente il controllo della mafia, 'ndrangheta, quello che sacca coronavita, mettiamocele tutte tanto per farci capire, è molto esteso e la gente, come diceva lei giustamente, sente questa cosa e la sente molto più vicina che lo Stato, perché in realtà giù nel sud di infrastrutture non ce ne sono che possono aiutare le aziende. Aggiungo un'altra cosa, le aziende ci fanno, lei o qualcuno ha parlato di cattedrali nel deserto, questo oltretutto, oltre a prendere soldi dello Stato e quindi magari sprecarli perché poi alla fine non si ottiene nulla, cioè risulta nulla di fatto, crea una concorrenza sleale con tutte le aziende del sud, del centro, del nord, dell'ovest, in quanto se lei considera che io partecipo a fiere all'estero perché la nostra azienda lavora esclusivamente con l'estero, quando mi trovo ad andare a una fiera all'estero io ho delle spese. Le aziende del sud che vengono finanziate a costo zero, ovviamente queste spese non le hanno. Chiarissimo. Ma non è solo questo, attenzione, non è solo questo un discorso meramente di soldoni, è perché poi tutto, lei sa benissimo, che si riflette sul prezzo, cioè io divento più caro perché gli altri hanno soldi, contributi. Poi queste aziende cosa fanno? 2 anni poi spariscono, io però ho un ulteriore danno che il prezzo abbassato non riesco più a alzarlo. Questa è una cosa. Poi sono d'accordo col primo intervento che diceva facciamo una tassa zero, annulliamo i contributi oppure rendiamoli un po' più bassi, in maniera tale che l'azienda, magari non solo 5 anni, un po' di più, diamo il tempo che questa si introduca sul mercato, raggiunga quote di mercato, facciamo le infrastrutture, ma facciamole in modo tale che esistano, non che siano sulla carta e poi spariscono i soldi. Diamo una possibilità, perché il sud è vero che tanti cervelloni se ne vanno via. Perché? Perché purtroppo giù o diventi un amico degli amici, oppure diventi una persona che fa il suo lavoruccio e le faccio una battuta, ma attenzione che non vorrei essere frainteso, un mio amico del sud ha detto voi al nord leggete la Gazzetta dello Sport, noi al sud leggiamo la Gazzetta ufficiale per i concorsi pubblici, è sbagliato anche questo. Chiarissimo, una voce che dice attenti perché invece continuare a buttare soldi in finte imprese del sud non serve a niente. Minoritari fino a questo momento del zio Valdetto. Eccoci tornati in studio, ricomincerei proprio con le risposte del zio alle varie obiezioni. Le ricordo, D'Antoni dice le aziende di Stato non hanno investito, devono investire ancora nel sud. Domenico De Masi ripete c'è una questione antropologica, Mimmo Gangemi ha detto attenzione che con l'andrangheta che c'è qui poi il credito d'imposta finirete per darlo agli amici degli amici. Partiamo da queste obiezioni del zio, che risponde? Beh, intanto i libri funzionano se creano dibattito, quindi come dire, questo è molto interessante, tutte le argomentazioni che ho sentito. Allora, sono molto d'accordo con D'Antoni, in realtà lo racconto anche nel libro con dei numeri. Il caso delle Ferrovie dello Stato è clamoroso da questo punto di vista. Azienda pubblica finanziata interamente dal Ministero dell'Economia e capitalizzata dal Ministero dell'Economia al 100%, che fa un ragionamento di mercato e quindi investe al nord, al centro ed evita di addentrarsi, come dire, nei terreni meno favorevoli dal punto di vista della redditività del sud. E qui però, come dire, tradisce. Però il povero Moretti io un po' lo devo difendere, perché se vogliamo che riequilibri il bilancio deve andare nei servizi a più valore aggiunto dove c'è concorrenza, sennò che vogliamo fare? Però le infrastrutture servono a tutti e sono un servizio essenziale dello Stato, quindi come lei sa Giannino, su questo potremmo discutere certo. A lungo. Però è un gap di competitività molto forte per il sud. Quindi sono d'accordo con D'Antoni, salvo che su un punto. Non è vero che Confindustria abbia dei grandi problemi interni a dire che vuole rinunciare agli incentivi, perché in realtà proprio il Comitato Mezzogiorno di Confindustria, credo 4 anni fa per la prima volta, ha assunto una posizione molto forte da questo punto di vista, proponendo proprio la cancellazione totale degli incentivi a favore di una no tax area. Quindi credo che anche nel mondo industriale, che pure rappresenta tante anime diverse, si sia finalmente formata la convinzione che questo tipo di incentivi non servono a nulla e che bisogna procedere con una detassazione degli investimenti al sud. Per quanto riguarda il ragionamento che faceva De Masi, io nel libro parlo di rassegnazione etnica, ovvero ho una grandissima paura, cioè che i meridionali non credano più al loro sud, e che non ci credano soprattutto le classi dirigenti, le elite del paese. Guardate, ci sono segnali di tutti i tipi, contabili, sociali, di policy soprattutto, fortissimi da questo punto di vista. E questa è la mia grande paura ed è, se volete, il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro. In più, ecco, invece sono in radicale disaccordo con quello che diceva Cancemi, nel senso che qui si rischia di ricreare il solito loop della canna che si morde la coda, o se volete della canna da pesca che viene data al pescatore che non vuol pescare. Cioè non si può sostenere che aprire le finestre, che portare capitali privati magari da fuori, come io propongo, al sud, sia deleterio, perché tutti quei capitali sarebbero intercettati o intermediati o inquinati dalle varie mafie. Evidentemente un ragionamento di questo tipo paralizza il sud e impedisce la rinascita, come dire, prima di neanche provarci. Quindi su questo davvero credo che dovremmo abbandonare questo tipo di approccio. Alfonso da Frosinone, mi sembra che intervenga esattamente su questo punto. Che dice Alfonso? Alfonso è caduto purtroppo. Patrizia da Trapani? Buongiorno. Prego. Allora, io faccio questa sintesi. Hanno ragione tutti, Sergio D'Antoni, Domenico De Masi, l'autore del libro che è intervenuto. Ma chi ha torto? Le mafie sono un ostacolo nel sud, ed è vero. Ma il vero assente è lo Stato, perché ci sono una sequela di amministrazioni che giocano contro il loro territorio. Partiamo per esempio dalla regione Sicilia. Questo continuo aumentare gli stipendi ai dipendenti, mettere tutte queste persone in più come esperti, questo è un modo di rubare i soldi al cittadino. Nel libro si dice che nel sud si investe di più di quanto poi sia realmente l'entrata delle risorse che devono venire dall'avere appunto dei turisti nel territorio. Ma Patrizia, la interrompo. In che perché modo si investe? Patrizia, interrompo perché questa obiezione che io faccio è un po' radicale, perché se si dice, si continua a dire, io lo rispetto, infatti adesso la giro a D'Antoni la domanda, se si continua a dire però lo Stato deve continuare, e poi mi si dice, e poi andiamo a vedere però lo Stato come si organizza nel sud, eccesso di personale, eccesso di clientela, eccesso di intermediazione partitica impropria e così via, e allora delle due lune, o ce l'ha insegnata l'esperienza storica che la mano pubblica nel sud tende a prendere più che altrove, non ne faccio una questione antropologica, ma più che altrove, forme improprie, questo significa anche massicci sprechi eccetera eccetera, e allora però ne dobbiamo dedurre che di questa forma di intervento di Stato e pubblico non ce n'è più bisogno, D'Antoni, oppure no? No, il nostro problema è stabilire quale Stato, non più Stato, cioè se noi dobbiamo fornire ad un territorio i servizi proprio che sono indispensabili per lo sviluppo, dobbiamo farlo. È vero che c'è un problema di economicità, bisogna caricarsi di questa economicità, cioè fargli fare allo Stato quello che lo Stato fa in qualunque zona del mondo, diciamo, se lo fa al nord, in questo momento non parliamo, poi dopo la crisi l'ha fatto dovunque, c'è stato un interventismo spaventoso. Certamente. Ma al di là di questo, io dico proprio, facciamo le cose che toccano lo Stato, le strade, le ferrovie, la banda larga, cioè le cose che servono per fare lo sviluppo, perché se portiamo poi lo sviluppo, noi sconvinceremo proprio questa cultura, quella di cui parlava De Masi, quella di cui sconvinceremo la 'ndrangheta, la mafia, con un problema di repressione, di funzionamento dello Stato. Ma se mettiamo la cultura del positivo, del lavoro produttivo, l'esperienza che lei ha citato di Catania, del ST, è la gli ingegneri si laureano a Catania, vanno a lavorare lì, come di tutto questo ha messo in moto un circuito positivo, quindi è possibile farlo. Quindi io sono d'accordissimo che uno Stato che funziona, che fa le cose che altri non possono fare, come i servizi, una lotta allo spreco, e su questo il libro dice cose giustissime, e una no tax area, su questo io sono liberista come lei. Cioè, una no perfetta. Non taxare, però la dobbiamo ottenere, non farcela no, no, questo non c'è dubbio. Su questo anche, quindi, su questo anche mi tocca dire che sono d'accordo con lei, anche contro Tremonti, non mi importa niente. Perché, ecco, perché non si può punto, dire. Poi facciamo, le tasse le abbassiamo sempre tra 5.000 anni. Contro tutti gli incentivi. Io, quando sono stato viceministro, li ho eliminati. Tu, contro tutti gli incentivi, ma in tutte le parti d'Italia, perché ancora ce ne sono tanti e dovunque. E li facciamo contro tutti. Facciamo benissimo, la differenza. Benissimo, benissimo. Nel sud attraiamo gli investimenti produttivi. Benissimo. Dezio, una cosa invece non ho capito. La risposta da dare alla questione antropologica che dice il professor De Masi quando dice qua 10 campani è inutile, 10 Lombardi e 10 Venete, se rimettiamo a organizzare 3 cantieri, i 10 campani arriveranno sempre terzi. Nella sua esperienza, lei parla ai conterronei, dice alla fine del suo libro, sì. Cioè, ma è così, siete così, non credo, oppure sì? No, qui è una tesi un po' diversa, cioè credo che ci siano molti sud diversi da questo punto di vista. Ma quello che prevale, io temo che De Masi abbia ragione, che sia quello che, per il quale poi quando si tratta di organizzare si organizza sempre peggio, giù, o no? Guardi, però io ho conosciuto direttamente molte esperienze industriali, per esempio, fatte al sud, e ho notato che quando c'è un innesto dall'esterno di capitali, di management, di imprenditorialità... Ah, vede che parla di innesto dall'esterno, però? Esatto, ah, esatto. Ma allora aspetti un secondo, mi sposto da De Masi. Non è che noi abbiamo bisogno di mandarvi un po' di... Invece di quei 500 teste di piffero di bergamaschi che non avevano niente da fare e hanno fatto l'Unità d'Italia, che se stavano a casa forse stavano tutti meglio, ma questa è la mia personalissima opinione. Ma se vi mandassimo un po' di bergamaschi ingegneri per evitare che il bellissimo auditorium che grazie a lei si è fatto finisca nelle mani di un comune che o non ha risorse o non è capace poi di avere la rete di relazioni per farlo funzionare, per fargli organizzare eventi tutto l'anno, vi servono un po' di bergamaschi, ve li mandiamo? Io preferirei un ingegnere che ha fatto esperienza a Bergamo ma che era nativo del sud, cioè sarebbe il ritorno di tutti quelli che dopo aver fatto esperienza hanno ancora, diciamo, nel fondo profondissimo proprio del loro inconscio un desiderio di tornare nel sud e fare leva su quello. Per quanto riguarda poi il comportamento dello Stato, io ricordo che ci sono stati due soli periodi in qualche modo felici e che inducevano la speranza. Sono stati il primo periodo della cassa per il mezzogiorno, esatto. C'è poco da fare, certo. che si dica, la cassa per il mezzogiorno, quella con la presidenza Pescatore, e contemporaneamente l'azione dell'IRI nel sud. Allora, dico, ci sono stati due periodi felici in cui il sud sembrava veramente rinascere, e lo era per queste forme miste tra Stato e privato, cioè di incentivo pubblico ma gestito con modalità private, che poi diventò il modello per una serie di aree del mondo che volevano svilupparsi. Purtroppo quelle aree sono andate fino in fondo e si sono sviluppate, le nostre, che diceva Longanesi, gli italiani sposano un'idea e poi subito la lasciano perché non fa figli. Noi abbiamo immediatamente abbandonato la gallina dalle uova d'oro e ora non abbiamo né gallina né uova. Benissimo, io allora vi invito ancora tutti ad approfondire queste 6 proposte shock. Il libro si chiama La scossa, 6 proposte shock per la rinascita del sud, ed è dell'editore Rubettino, grande editore liberale e liberista del nostro paese, e io per questo va citato insieme ai libri di Macerata. Rubettino è un po' un'eccezione, una perla per chi la pensa come il sottoscritto. Io ringrazio gli ospiti di oggi, ne parleremo ancora, perché temo che su questa questione dell'antropologica del sud, secondo me, c'è molto da riflettere. Oggi ho fatto parlare meno di tutti Mimmo Cangemi, che su questo molto ci potrebbe dire. L'appuntamento è, sperando che loro me lo consentano, a domani. Grazie in regia a Paolo Corleoni e ad Alessandro Marco Tulli, in linea al giornale radio. Mm.